النجم، la stella. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. والنجم إذا هوى. Per la stella quando tramonta. ما ضل صاحبكم وما غوى. Il vostro compagno non è traviato, non è in errore. وما ينطق عن الهوى. E neppure parla d'impulso. إن هو إلا وحي يوحى. Non è che una rivelazione ispirata. علمه شديد القوى. Gliel'ha insegnato un fortissimo. ذو مرة فاستوى. Di saggezza dotato, che compostamente comparve. وهو بالأفق الأعلى. Si trovava all'orizzonte più elevato. ثم دنا فتدلى. Poi si avvicinò scendendo ancora più in basso. فكان قاب قوسين أو أدنى. Finché fu alla distanza di due archi o meno. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Rivelò al suo servo quello che rivelò. ما كذب الفؤاد ما رأى. Il cuore non mentì su quel che vide. أفتمارونه على ما يرى. Vorreste dunque polemizzare su quel che vide? ولقد رآه نزلة أخرى. E in vero lo vide in un'altra discesa. عند سدرة المنتهى. Vicino al loto del limite. عندها جنة المأوى. Presso il quale c'è il giardino di Mawa. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Nel momento in cui il loto era coperto da quel che lo copriva. Ma zaga il basar wa ma tagha. Non distolse lo sguardo e non andò oltre. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Vide davvero i segni più grandi del suo Signore. Cosa ne dite di Allat e di Al-Uzza? E di Manat, la terza. Alakum al-dhakar wa lahu al-untha. Avrete voi il maschio e lui la femmina? Tilka idhan qismatun dhiza. Che ingiusta spartizione. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Essi sono coloro che evitano i peccati più gravi e le perversità e non commettono che le colpe più lievi. Invero il perdono del tuo Signore è immenso. Egli vi conosce meglio di chiunque altro quando vi ha prodotti dalla terra e quando eravate ancora embrioni nel ventre delle vostre madri. Non vantatevi di essere puri. Egli conosce meglio di chiunque altro coloro che lo temono. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. Hai visto colui che ti volge le spalle? وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. Che dà poco e poi smette di dare? أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Possiede conoscenza dell'invisibile e riesce a vederlo? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Non è stato informato di quello che contengono i fogli di Mosè. Wa Ibrahim alladhi waffa. E quelli di Abramo, uomo fedele. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Che nessuno porterà il fardello di un altro. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. E che in vero l'uomo non ottiene che il frutto dei suoi sforzi. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. E che il suo sforzo gli sarà presentato nel giorno del giudizio. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. E gli sarà dato pieno compenso. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. E che in verità tutto conduce verso il tuo Signore. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. E che egli è colui che fa ridere e fa piangere. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. E che egli è colui che dà la vita e dà la morte. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. E che egli è colui che ha creato i due generi, il maschio e la femmina. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Da una goccia di sperma quando è eiaculata. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. E che a lui incombe l'altra creazione. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. E che in vero è lui che arricchisce e provvede. E che è lui il signore di Sirio. E che lui annientò gli antichi Ad. وثمود فما أبقى. E i Thamud, sì che non ne rimase nessuno. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Come già accadde alla gente di Noè, che era ancora più ingiusta e più ribelle. E come già annientò le città sovvertite. E fece sì che le ricoprisse quel che le ricoprì. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ Quale dunque dei favori del tuo Signore vorrai mettere in dubbio? هذا نذير من النذر الأولى. Questo è un monito tra gli antichi moniti. أزفت الآزفة. L'imminente s'avvicina. ليس لها من دون الله كاشفة. Nessuno all'infuori di Allah può svelarla. أفمن هذا الحديث تعجبون. Ma come? Vi stupite di questo discorso? Ne riderete invece che piangerne? O rimarrete indifferenti? فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Dunque, prosternatevi davanti ad Allah e adorate.